E nella norma le scosse di magnitudo un po' più elevate che ci sono state, a parte la scossa principale, sono quasi dovute, diciamo, per una sequenza che, diciamo, da manuale, perché solitamente quello che si osserva è che a seguito di un terremoto importante come quello che c'è stato un paio di notti fa, tutte le altre magnitudo vengono rappresentate con una legge che si chiama Gutenberg-Richter, tipica dell'evoluzione delle sequenze sismiche. Per l'Appennino è un terremoto piuttosto consistente, che è normale che dia luogo a ulteriori fratture. Ora, il fatto che l'epicentro si sposti un po' è anche legato al fatto che spesso si parla di faglia che genera il terremoto, però è molto più proprio parlare di sistema di faglia, cioè sono spesso più di una faglia che viene coinvolta da un'attività di questo genere.